to start sometime. What better place than here? What better time than now? E Radio Montado in trasferta in campagna. Siamo appena arrivate al campus di Fisciano, bellissimo paese. Non sappiamo ubicato bene dove. Ridente cittadina in provincia, ridente agglomerato di infrastrutture. Esatto. Vicinissimo a Salerno. A Salerno, punta di diamante dell'istruzione salernitana, ma è una roba enorme, stiamo vagando. È talmente punta di diamante che devi sapere, Grebana, studiando sul loro sito che io ti avevo mandato perché è divertentissimo, questo fine settimana c'è il cibo green. Oh. Il cibo green, che secondo la potente università di Fisciano, questo campus, il cibo green vuol dire vegetariano. Oh, come è da sempre che noi sosteniamo su Radio Montado, finalmente qualcuno che conferma le nostre tesi di anni ed anni, vedi, poi dopo un po', il cibo vegetariano, ottimo, bene. Ma adesso stiamo camminando in questo enorme campus, c'è vento, quindi questa registrazione sarà bellissima, macchine che passano, persone che ci guardano insospettite. Avvisiamo le ascoltatrici e gli ascoltatroci che ci stanno ascoltando. Che sarà una puntata molto truce. Siamo in trasferta e ovviamente caricheremo tutto alla cazzo di cane, così come viene. Esatto, quindi voi ci sentirete con una differita di qualche ora, perché ci sentirete più o meno, se tutto va bene, verso le 15:30 di oggi pomeriggio, mentre adesso sono circa le 10 di mattina, ma lo sappiamo, c'è un po' di fuso orario tra nord e sud, ma non vi preoccupate, vi volevamo tenere aggiornati su questo bellissimo incontro di genuino intergalattico, ma soprattutto vi ricordiamo e oggi è la giornata internazionale delle lotte contadine. Esatto, ma ci risentiamo tra poco. No, ma è incredibile, chi abbiamo qui con noi? Abbiamo qui Taeshi, che fa finta di sparire nonostante siamo in radio e non la possiamo vedere, ma è implosa su se stessa e sta facendo il pesce muto, quindi non collabora. Ed eccoci qua, cos'è che faremo come prima nostra mossa politica di oggi? Andare a prendere un caffè. Esatto. Perché ci hanno detto il caffè nel campus di Fisciano. Non riesco anche a dirlo. E soprattutto al bar di lettere. Esatto. È una cosa paragonabile all'esperienza unica e che assolutamente tutte e tutti dovete provare. Che abbiamo fatto anche ieri sera di mangiare la pizza da Franco's. Da Franco's. No, è un'esperienza uguale, che vi consigliamo molto. E ora siamo qua per degustare, visto che tra l'altro è la settimana green del caffè, ma nella brioche. Allora, è vero, non ci possono essere animali in questa settimana green, e quindi sarà una sfoglia all'olio? Scopriremo, vi aggiorniamo. Le provocature settentrionali schifano a tutte meridionali, capolore schifano i senegalesi che schifano i zingari e marrucchino, marrucchino, schifo cinese che non c'è una poco, polacca albanese che non c'è una vorno, con serbo croate che poggia se schifano uno con altro, o spacciatore con disoccupato, o provocatore con l'impiegato, chi te una bottega con l'ambulanto, pensionato con rappresentante, vigile urbano con chi te un cano, malavitoso con disadattato, sta chi te ne poca che non te ne niente fanno a chi occhio malamente, o ballare paziente, o ballare paziente, sanna acchiappata, candere e niente, ballare paziente, ballare paziente, sta tarantella non ballare paziente, ballare paziente, ballare paziente, tutto burdello che avvince n'ava niente, ballare paziente, ballare paziente, liscio magante non ballare paziente, e poi non capisco buono che la che succede, non se può sta più tranquilli in da su cazzo quartiere, non ci abbastava violenza con gli occhi non c'ero stata, ci abbasta fatica, ci abbasto prega con gli giorni a scimmie già si mi spruzzata, non ci abbassa né basume a merda in dei supermercati, non ci abbassa che ballamme peggiore da randolata, tutta vita non ci abbassa e c'era una cunata, tu mi hai fatto chi sta a me, chi sta a fatto chi sta a te, c'è scordato piste o ballere paziente, perché è buono e malamente, chi fa riga è buono o male, chi sa lascia e cosa lagna, sono cadante questa gente, brutta, sporca e impertinente, ammiscata insieme a tante, una fama cavannale, piste o ballere paziente, chi mai ha avuto niente, ma non lo facete forte, e il giudico è buono e forte, la vita che anda e stiende, non si è dove niente, per come mai la casa te, troppo lui. Eccoci qui dopo la nostra bellissima colazione, veramente quella migliore della nostra vita, un cappuccino così, ve lo consigliamo proprio. Vabbè, beh, i pezzi dolci, insomma, fenomenali, notevoli, degni di quelli proprio surgelati e tu compri schiaffi nel forno, però di una certa classe. Esatto, ci siamo stupiti un po' della crema dentro al cornetto perché abbiamo scoperto di essere dentro la settimana del Green Food e quindi cosa succede? Le mense di Ateneo partecipano alla settimana dell'alimentazione sana, sostenibile e consapevole, ma adesso la dama ci leggerà quello che c'è scritto sul sito del bellissimo Ateneo. E capita a fagiolo, no? Perché stiamo proprio qua a fare un presidio per la sostenibilità ambientale. Dal lunedì 13 a venerdì 17 aprile l'azienda per il diritto allo studio universitario della regione Campania aderisce alla Green Food Week, iniziativa promossa dall'associazione Food Insider, con l'obiettivo di valorizzare e diffondere un'alimentazione consapevole, capace di apportare benefici sia alla salute sia all'ambiente. Cosa succederà quindi da lunedì 13 a venerdì 17? Presso le mense di Fisciano e Baronisti saranno proposti piatti green, caratterizzati dall'utilizzo prevalente di ingredienti di origine vegetale, oltre a prodotti biologici a filiera locale, ma chi se ne frega, però vegetali. Nel corso dell'intera settimana è previsto l'inserimento quotidiano, sia a pranzo sia a cena, di almeno un primo e un secondo piatto green, ovvero privo di ingredienti di origine animali. Poi, visto che gli dispiaceva un po', insomma, social green, il verde solo, poi green, verde, che vorrà dire? Cioè, quindi solo, niente carote, per esempio. Cioè, vegetali solo verdi, no cipolle, un po' tristezza. Però per la giornata del 16 aprile, invece l'offerta sarà interamente priva di carne e pesce. Oh, perché siamo una specie di giovedì santo. Però che sì, non ci saranno proprio piatti. Non c'è alternative. Non c'è alternative. Quindi abbiamo appena scoperto che quindi green vuol dire vegetariano. Quindi se vuoi mangiare bene, soprattutto a Fisciano, Salerno, a due passi dalla Piana del Sele, che avremo modo di approfondire e scoprire bene che cos'è con interviste che faremo successivamente, meglio se ti mangi un sacchettino della rucola in busta che coltivano chimicamente sotto le serre, perché quello green è un'alimentazione sana e consapevole. Esatto. Viva la quarta gamma! Ma giustamente abbiamo qui uno degli organizzatori, il nostro amico Gianni, che mi diceva giustamente che non ho spiegato che cos'è la quarta gamma e quindi lui ci voleva un attimo brevemente illustrare. Quando parliamo di quarta gamma, cos'è la quarta gamma? Nella filiera industriale la quarta gamma sono quelle automobili che si fanno di quarta gamma, cioè... Dicevo i pezzi di scarto, ma abbiamo un giovane ragazzo che fa parte sempre dell'organizzazione e ci voleva dire in due parole che cos'è la quarta gamma. È un casino, una piaga della Piana del Sele. E un po' più nello specifico? La coltivazione di tutti i prodotti tipo lattughine, rucoletta e simili, che diciamo nella sua equazione prevede lo schiavismo di un tot di persone che coltivano e poi raccolgono questi alimenti. Che finiscono in busta? Che finiscono esclusivamente in busta. Oh, perché ottimo. Tutto, ogni ettaro ha poi di per sé un reparto di plastificazione, cioè di imbustamento, e diciamo il 70% di quello che si trova nei supermercati italiani e esteri arriva da qui. Quindi. Bene, Takeshi, cosa ne pensi? Maledetta grebana. Questo sto pensando in questo momento. Bene, quindi sappiamo da ora in poi. Oh, ma chi vediamo? Il nostro amico Sirio, che è sceso dal Trentino planando come un'aquila verso la piana del Sele. Cosa ne pensi d'ora in poi di comprare insalata in busta? D'ora in poi, cioè, di solito ero così lanciato a comprare insalata in busta, non potevo vivere senza, proprio ci tenevo tanto a comprarla, adesso invece devo un po' ricredermi, cercherò di limitarla da tutti i giorni almeno 3 volte a settimana. Grazie, ed è per questo che ti portiamo dal Trentino con noi sempre, per dare profondità e spessore ai nostri incontri. Grazie, gentile. Oh, ma abbiamo qui un giovane ragazzo iscritto all'Ateneo di Fisciano. Ma cosa ne pensa di questo campus? Grosso, accidenti, è molto frequentato, e devo dire questa gioventù napoletana, scoppia di salute, vedo tutti belli abbronzati, rilassati. E questo poi quindi mi sembra dalla voce lei è uno studente fuori sede, o mi sbaglio? Io sono fuori sede, sì, vengo dal nord per apprezzare le possibilità che questo grande campus ci dà di, appunto, di acquisire il sapere. Nella piazza in cui siamo c'è un nome caratteristico, si chiama Piazza del Sapere, perché sappiamo il sapere è uno solo, è custodito in luoghi come questo campus, in cui ci fanno la grazia di infonderlo anche a noi, ecco, di donarcene un pochino, quindi dai, è una grande opportunità per noi. Pioggia di sapere. Qua, esatto, a farci infondere un po' di sapere dal campus. Ma lei deciderà di mangiare green questa settimana, per la settimana del food green? Mangio quello che c'è, mangio green, mangio red, mangio brown, a me che mi danno mangio tutto, insomma stavo schizzinoso, ecco. Poi sì, un po' di green fa bene, le fibre per l'intestino ci vogliono. Ma si è detto che oggi è la giornata internazionale delle lotte contadine, ma non solo, perché oggi è un'altra giornata anche. Oggi è anche la giornata internazionale dedicata ai prigionieri palestinesi, che per quest'anno tra l'altro hanno scelto, insomma, i compagni a livello internazionale di chiamarla la giornata degli ostaggi palestinesi, un po' anche per rimarcare, no? Un pochino smontare la narrazione per il quale ci sono i palestinesi terroristi che fanno ostaggi e invece c'è il legittimo Stato israeliano che fa prigionieri. E invece, appunto, è importante sottolineare in questa giornata che, insomma, le persone sequestrate dallo Stato in Palestina come nel resto del mondo sono ostaggi a tutti gli effetti, e bisogna un po' far cadere questa distinzione che i cattivi fanno gli ostaggi e invece i buoni fanno i prigionieri. Quindi sì, tra l'altro in quest'anno cade anche un momento particolare, perché c'è questa nuova legge che è passata in Israele sulla pena di morte, che sostanzialmente è una forma, un'altra forma legalizzata del genocidio che è in corso nelle terre di Palestina ormai da decenni, e tra l'altro, insomma, cose particolari, e sappiamo che giudicati da questa nuova legge ci saranno anche bambini, ragazzini fino a 12 anni, e non è dedicata solamente ai combattenti, ai partigiani, insomma, ma a tutta la popolazione palestinese. Grazie mille. Grazie a te. Eccoci di nuovo qua con un giovane studente fuori sede, ci voleva dire qualcosa di questo campus salernitano. Sì, no, io sono veramente, infatti la mia proposta è fare, non fare più cambiare il campo, ma cambiare il campus. Secondo me sarebbe una proposta politicamente valida, perché qui è veramente un clima surreale. A parte la Digos, con cui sono gli unici con cui si sta interloquendo in questo momento, il resto c'è una marea di fantasmi che si aggirano, tutti teleguidati o il telefonino in mano, non ce n'è uno che non sta guardando uno schermo, e vabbè, boh. Ma soprattutto ci piacciono i nomi delle piazze e dei luoghi. Sì, sì, sì, ho visto un posto che si chiamava il portico della statistica, mi è rimasto particolarmente. Poi quando mi sono trovato in piazza della politica ho detto finalmente sono arrivato nel posto giusto. E poi vabbè, adesso in questo momento siamo in piazza del sapere, sti cazzi, voglio dire. Per chi non lo sapesse, siamo in piazza, del sapere. Ottimo. Ma abbiamo qui con noi una delle nostre portavoci della manifestazione che oggi si sta svolgendo a Fusciano. Ci hanno detto, lei ha intrattenuto una meravigliosa conversazione con degli studenti un po', proprio un po' fuori sede. Molto fuori sede. Non fuori coso, proprio prima fuori mi sede. Hanno detto di essere dei dottorandi e professori dell'università. E io gli ho detto in che ambito? E loro hanno detto polizia. Perché io e Giovanni Pandolfi, come? C'è la specializzazione in polizia. Ma ci ritengono talmente pochi e talmente poco offensivi, che però gentilmente si sono interessati, hanno preso un volantino e si sono fatti spiegare per filo e per segno ITEA, che cos'è la tecnologia 4.0, quali sono i veri problemi, e io gli ho chiesto di aprire la mente, se è possibile chiederlo a tre poliziotti della Digos. Vabbè, grazie. È stato un piacere. E ora abbiamo qui con noi uno degli organizzatori di questa giornata all'università. Uno Dede, cosa succederà ora? Cosa avremo? Stiamo volantinando adesso in questo momento con un collettivo di studenti della facoltà di lettere, hanno preparato un altro striscione e stanno entrando dentro la facoltà, e per cui attaccheranno lo striscione dentro la facoltà e volantineranno. Dopodiché usciremo tutti insieme e continueremo il volantinaggio, e se ce la facciamo megafoneremo in piazza. Bene, grazie. Prego. Oh, e finalmente, dopo mille interviste a studenti fuori sede, forze dell'ordine, eccetera, siamo qua con un collettivo invece di studenti, Link Fisciano, che sono proprio di questa università. E ci raccontate un po' chi siete, perché Link vuol dire siete in collegamento anche con altre università, di che cosa vi occupate? Sì, noi siamo Link Fisciano, siamo un'organizzazione studentesca di stampo sindacale che fa parte di un coordinamento universitario presente in tutta Italia, infatti ci trovate in molti atenei d'Italia e anche qui a Fisciano. La nostra organizzazione è un'organizzazione di ispirazione sindacale, di stampo sindacale, e i nostri obiettivi sono la tutela delle studentesse e degli studenti per un'università che sia contro il merito, sia laica, sia libera e sia soprattutto gratuita e accessibile a tutte le soggettività, anche comprese quelle marginalizzate. Bella questa cosa che comunque c'è una rete fra università, perché ovviamente credo le problematiche siano le medesime da università all'altra. È chiaro, il contatto con le altre università ci permette di interfacciarci con altri territori d'Italia, con tanti altri territori d'Italia, e vedere in che modo funzionano gli atenei nelle altre regioni d'Italia, di quali sono i problemi su cui si può convergere, su cui si può dare un contributo e si può collaborare, e soprattutto sappiamo quando è il momento di richiedere forze dall'esterno e richiedere energie dall'esterno. Sappiamo di poterci confrontare, che siamo tutte studenti che vivono le stesse oppressioni, le stesse dinamiche oppressive ogni giorno in tutta Italia e in tutto il territorio. Guarda, è un gran lavoro, credo sia importante. E oggi ci avete accolto qua, insomma, per questa iniziativa per parlare un po' di DGM, ma com'è successo l'incontro? Sì, siamo stati contattati dal collettivo Genuino Clandestino, faccio bene a chiamarlo collettivo, e abbiamo accolto l'occasione perché non è un tema di cui in realtà abbiamo parlato spesso, anzi è un tema su cui vorremmo molto di più formarci per proporre anche nuove iniziative e nuove attività in merito. E abbiamo colto l'occasione, anche perché oggi è la giornata internazionale delle lotte contadine, e per questo abbiamo deciso di dare il nostro contributo. E immagino che anche in futuro, avendo avuto questo contatto in questo momento, potremo averne ancora tanti altri, potremo ancora continuare a lavorare insieme per aprire un dibattito anche su questo tema, che forse in questa università è anche fondamentale, perché ci sono molti corsi del polo scientifico che si occupano anche di questo, ci sono i corsi del polo agrario in cui il dibattito sul tema, sulla sensibilità del tema in realtà continua a essere assente, perché in questa università si continua a fare un tipo di didattica che è volta solo al mondo del lavoro e della produzione, senza sensibilizzare sulle tematiche reali, sulla salvaguardia della tutela dell'ambiente e su cosa voglia dire ecoagricoltura realmente. Quindi... Sì, noi interfacciandoci un po' col sito della vostra università, ci pare che non sia proprio chiara la situazione, soprattutto né in agraria né in nessun polo, né tantomeno per la mensa, che abbiamo scoperto all'interno di questa settimana del Food Green, dove per loro green vuol dire semplicemente mangiare vegetali, insomma, esatto. È una cosa un po' particolare. Esattamente, abbiamo visto una situazione particolare in questa settimana proprio per la Green Week a mensa, in cui la proposta è stata quella di dare dei prodotti cosiddetti green, quando in realtà non c'è nessuna indicazione su se realmente questi prodotti sono bio, se realmente questi prodotti sono a chilometro zero e privi di OGM, di pesticidi. Questo è vero per tutti i punti di ristoro presenti all'università. In realtà di recente, grazie al lavoro di un nostro rappresentante in fondazione universitaria, Vincenzo Landi, che è rappresentante degli studenti in fondazione universitaria, è stato erogato un questionario sulle attività e sui punti di ristoro di questa università, in cui le studentesse hanno potuto lamentare il fatto che in tutti i punti di ristoro non si trovano delle info board o comunque delle tavolette informative sulla provenienza dei prodotti e sul trattamento dei prodotti in questa università. Non c'è certezza che i prodotti che vengono utilizzati per rifornire i punti di ristoro siano realmente bio, siano a chilometro zero, e soprattutto non c'è nessun dibattito che si apre sull'informare rispetto a questo. Così come è anche vero che i prodotti vegetali, i prodotti di natura vegetale in questa università continuano a scarseggiare, e le persone che prendono la scelta di essere vegetariani o vegani continuano ad aumentare, la domanda continua ad aumentare, eppure non si fa nulla per ovviare a questa cosa. E sia a mensa sia nei punti di ristoro è difficile oggi per persone vegetariane e vegane trovare un pasto che sia completo, che sia soddisfacente e che sia accessibile, e così anche per le persone onnivore è difficile trovare dei pasti che siano consapevoli, di cui questi abbiano tutte le informazioni necessarie per avere un'alimentazione informata e consapevole. Quindi speriamo che con questa piccola contaminazione riusciamo a iniziare a portare dei temi anche di questo tipo all'interno dell'università. Ce lo auguriamo anche noi. Grazie, grazie mille. Amore. Noi siamo una piccola delegazione di un movimento che si chiama Genuino Clandestino, un movimento nazionale per l'agroecologia, e in questi giorni ci ritroviamo a Terrasana, in località Spineta, qua vicino in mezzo alle serre, per parlare di agroecologia e di agricoltura. E in particolare, insomma, noi siamo tutte persone che lavorano con la terra, nella terra, e diciamo il nostro mondo ultimamente è investito da una serie di innovazioni tecnologiche che sostanzialmente andranno a distruggere non solo il nostro lavoro ma anche i territori. Insomma, sono solamente le ultime tecnologie che si aggiungono già a quelle introdotte con la rivoluzione verde nel secondo dopoguerra, e oggi come ieri, diciamo, la nostra idea è che queste tecnologie non servano davvero per produrre cibo, per fare agricoltura, ma sia un modo di mettere a reddito le scoperte che il settore militare ha bisogno di implementare continuamente al fine di raggiungere poi potenze distruttive sempre maggiori. Per fare un caso su tutti, delle vecchie tecnologie diserbanti come il glifosato, vediamo come viene usato nei campi dell'agricoltura industriale per seccare le malerbe, ma i suoi principi attivi, diciamo, sono nati per defogliare le foreste vietnamite durante la guerra, il napalm, o come tuttora in Siria e in Palestina l'esercito israeliano sparga ampie aree di glifosato per impedire alle popolazioni locali di fare agricoltura e di sostenersi col proprio lavoro. Beh, ecco, se siamo qua, siamo venuti in campagna appunto perché è un posto in cui diciamo l'agricoltura ricopre un ruolo importante, e non è un caso se proprio qua a Napoli è stato fondato questa fondazione AgriTech Center, che si dovrebbe occupare di innovare il settore agricolo con le ultime tecnologie, le famose tecnologie abilitanti, tra cui troviamo ad esempio la genomica, la robotica, l'utilizzo dei droni. Ma a noi, diciamo, questa narrazione che ci dipinge queste novità come grandi innovazioni che rivoluzioneranno in meglio il settore, diciamo, non la crediamo, perché abbiamo già visto che nel passato è stata utilizzata questa narrazione per spingere implementazioni tecniche e tecnologiche che si sono rivelate nocive. Le falde acquifere di questi territori sono piene dei nitrati che vengono dati per far crescere le piante in condizioni pessime, però con un utilizzo della chimica sempre più spinto si riesce comunque a portare poi il prodotto nella grande distribuzione, prodotti spesso pochissimo nutrienti, spesso velenosi, ma che garantiscono diciamo grandi guadagni poi alle compagnie dell'agrobusiness. E in particolare una caratteristica che adesso abbiamo notato rispetto a queste ultime tecnologie, che vengono spesso sviluppate in partnership con lo Stato di Israele, che è all'avanguardia mondiale di questo nuovo modo di produzione. E non è un caso che sia proprio Israele all'avanguardia in questo nuovo modo di produzione, perché la derivazione appunto dal mondo bellico là è fortissima, è un posto che sta portando avanti una guerra coloniale da decenni e che quindi ha necessità di sviluppare tecnologie come le tecnologie di mappatura satellitare, l'utilizzo di droni in agricoltura, che poi è un modo per sostituire il lavoro umano e il lavoro delle comunità agricole con quello delle macchine. E quindi vediamo le persone vengono sempre più allontanate dalla terra, dai propri territori e dalla propria autonomia, perché chi conosce il territorio, chi si produce il proprio cibo, chi è in grado di utilizzare strumenti poi per portare avanti la propria vita quotidiana è meno ricattabile ovviamente di chi è dipendente per la propria vita da strumenti che arrivano da lontano. Le guerre che si stanno diffondendo in tutto il mondo sono proprio guerre per il controllo delle risorse, le risorse che servono per produrre macchine, per produrre tecnologia. Adesso stiamo vedendo ad esempio il tema del gasolio e dei fertilizzanti che venivano in gran parte prima dall'Ucraina, adesso dal Golfo, e vediamo come queste implementazioni che dovrebbero rendere più resilienti i nostri territori in verità li rendono ricattabili e soggetti alle fluttuazioni che i mercati causano. Adesso il mondo agricolo a livello mondiale, le grandi distese dell'Asia che dopo la rivoluzione verde hanno iniziato a coltivare con varietà geneticamente migliorate che garantiscono grandi produzioni ma a costo di poter dare comunque sia di grandi input da mettere nel campo, no? Il gasolio, i fertilizzanti, appena questa filiera si interrompe, ecco che lo spettro della fame va a bussare le porte di masse enorme di contadini. E adesso con le nuove tecnologie, oltre alla dipendenza dal gasolio e dai combustibili fossili, si sta anche determinando sempre di più una dipendenza dalle terre rare che servono per fare i microchip, per fare tutte le macchine a alta tecnologia. E quindi ecco, la nostra proposta invece è quella di tornare a praticare agricoltura in modo agroecologico, in modo rispettoso dei territori, degli ecosistemi, utilizzando i materiali che i territori mettono a disposizione in modo rinnovabile. E quindi ecco, vi invitiamo a venirci a trovare in questi giorni, saremo lì a fare campeggio, ci saranno tavoli di discussione e poi domenica invece andremo al Porticciolo a Salerno, faremo un mercato con i prodotti della terra che abbiamo portato ognuno dalle proprie realtà, dai propri poteri, e può essere appunto anche un'occasione per conoscerci, per scambiare idee, per approfondire la questione, magari per cercare insieme anche poi modi di vivere, modi di organizzarsi anche in comunità e in società che ci rendano veramente indipendenti rispetto a tutto il mondo dell'agroindustria, rispetto al settore della produzione militare. E quindi vi invitiamo se volete venire a trovarci in questi giorni. Grazie. Europa libera da tutti gli OGM. Politica e agrobusiness stanno cercando nuovamente di introdurre gli OGM in Europa. Oggi in Italia li chiamano TEA, tecnologie di evoluzione assistita, credo sia, no? Ma le questioni che bloccarono gli OGM allora, poco meno di 20 anni fa, restano le stesse. Le piante TEA non sono OGM, dicono loro. Le TEA, tecniche di evoluzione assistita, sono nuove tecnologie genomiche per intervenire sul DNA degli organismi, sia vegetali che animali. Le piante TEA sono ottenute in laboratorio tramite mutagenesi e forbici molecolari, sono quindi OGM a tutti gli effetti, come ha ribadito anche la Corte di Giustizia Europea, sentenza del 25 luglio 2018. Un'altra affermazione che fa l'agribusiness: le TEA sono una risposta alle sfide dei cambiamenti climatici e della sicurezza alimentare. Cosa diciamo noi? Non esiste alcuna prova che le modifiche genetiche possano affrontare meglio i cambiamenti climatici e nessuno può sapere quali essi saranno in modo specifico. Negli ultimi 30 anni le colture geneticamente modificate hanno portato soltanto ad un aumento dell'uso di pesticidi, all'inquinamento dei suoli e delle falde acquifere e non si sono dimostrate più tolleranti alla siccità. Cosa dicono ancora l'agribusiness? Dicono lo sviluppo delle TEA è fondamentale per tutelare la biodiversità dell'agricoltura italiana e al contempo migliorare l'efficienza del nostro modello produttivo. Noi rispondiamo: le TEA provocano centinaia di tagli involontari e casuali nel DNA dell'organismo bersaglio. Secondo l'Agenzia per la Salute e la Sicurezza Alimentare francese, ciò può portare le piante a sviluppare tossine e nuovi allergeni potenzialmente dannosi per la vita umana e che potrebbero rivelarsi addirittura mortali per decine di specie di insetti, minacciando seriamente tutti gli equilibri biologici. Tutto il contrario quindi di tutelare la biodiversità. Ancora un'altra affermazione dell'agribusiness: le TEA sono cruciali per un futuro in cui sia garantita sia la produttività che la qualità e la sostenibilità del settore. La biocontaminazione causata da pollini OGM, rispondiamo noi, migrati naturalmente, potrebbe spingere tratti brevettati da un campo all'altro, inquinando geneticamente quelli di agricoltori biologici o OGM free. Le aziende detentrici dei brevetti, come è già successo nei paesi che hanno dato il via libera agli OGM, potrebbero denunciare gli agricoltori per violazione della proprietà intellettuale. L'agricoltura biologica potrebbe perdere il suo valore e la nostra sicurezza e sovranità alimentare essere messa a rischio. Tra l'altro, negli ultimi mesi questo è un fatto concreto, è successo sia in Spagna che in Canada, dove dei contadini, come noi, cioè dei piccoli produttori, sono stati portati in tribunale. Quindi non è una paranoia questa da parte del movimento contadino che tutela la biodiversità e i semi tradizionali. Ancora un'altra affermazione dell'agribusiness: per affrontare le nuove sfide è imprescindibile affidarsi all'innovazione. Cosa rispondiamo noi? Adesso che soffriamo le conseguenze di non aver previsto l'impatto delle nostre tecnologie, sappiamo che è inutile accelerare, fuggire in avanti sulla via dell'innovazione dell'industria agrotecnologica, ostinandosi a creare piante e semi resistenti, secondo loro, al disastro climatico, che la stessa industria agricola e meccanica hanno generato. La vera innovazione sarebbe un'assunzione di responsabilità e un cambiamento di strada. Diventare consapevoli che dobbiamo e possiamo trovare un equilibrio producendo a sufficienza nel rispetto degli ecosistemi, camminando verso l'agroecologia per la salute di tutti. Le sperimentazioni in campo delle TEA hanno già preso il via. C'è bisogno di contrastare la deregolamentazione e di impedire agli OGM di arrivare in Italia e in Europa. Ne va della nostra salute, della qualità dei nostri prodotti e della nostra libertà di scelta. Questo documento è stato preparato da Cambiare il Campo, che è una coalizione di associazioni e di produttori italiani, di cui fa parte anche appunto il movimento Genuino Clandestino, che è qui in Campania per organizzare il suo raduno annuale a Battipaglia. Come vi invitavamo prima, sul sito di Genuino Clandestino c'è un articolo con le coordinate e le informazioni per raggiungerci, nonché il programma di questi 3 giorni fino a domenica, dove saremo a Salerno, come ricordava Andrea, che viene dalla Toscana, e saremo al Porticciolo a Pastena. Ci chiedevano, a noi che siamo più microproduttori di zona, di ricordare e raccontare che cos'è la Piana del Sele. La Piana del Sele, dagli anni 90, quando è arrivato un imprenditore dal Bresciano e ha comprato dei terreni e ha aperto una produzione di quella che è la quarta gamma, cioè tutte le insalatine da taglio o spinaci e che vengono vendute nei supermercati e che trovate già lavate, vengono prodotte nella Piana del Sele, che ha un PIL, queste aziende hanno un PIL che è il doppio del PIL nazionale. È sicuramente un'imprenditoria molto abile, riesce a stare sul mercato rispetto all'agroindustria anche di altri paesi. Quindi ci sono delle multinazionali, c'è la Bonduelle per esempio a Eboli, e hanno totalmente trasformato un territorio. Se guardate una foto dall'alto, da satellitare, della Piana del Sele, è proprio una valutazione occhiometrica. Il bianco delle serre, veramente, se confrontate con l'ampiezza del comune di Salerno e di Battipaglia, siamo veramente ad occhio. Se l'andate a guardare, veramente colpisce. È tre volte l'estensione di un comune come quello di Salerno, quindi una impermeabilizzazione del suolo, come si dice, un consumo di suolo, perché le serre, l'acqua non cade sul suolo ma viene poi dirottata con delle grondaie e dei sistemi, e quindi rientra in quello che è il consumo di suolo. Quando sentiamo questa espressione, un suolo che viene impermeabilizzato. Inoltre c'è una riduzione enorme della diversità. Il discorso che noi facciamo sempre, un esempio che possiamo fare, è che siamo in tanti oggi qui in piazza, voi studenti, docenti, personale amministrativo e dei servizi qui all'università, e pensate se invece di tutti i vostri nomi ci chiamassimo soltanto, non so, Antonio, Sara e Cristina, quindi tre nomi, pensate che caos forse sarebbe persino a chiamarci qui in piazza per parlare. Ecco, la diversità è che ognuno di noi, quanti nomi sono presenti, potremmo fare un giro e vedere quanti nomi che abbiamo, quindi c'è una distruzione di quello che è il tessuto agricolo, che qui era un attimo prima, per esempio, Pescheti, Albicocchetti, Fragoleti, Carciofeti, e c'erano per esempio le due varietà di carciofo della Piana del Sele, no? la Natalegna e la Pascaiola, che invece si coltiva soltanto carciofo ibrido G3 e G4, quindi uno o due tipi di carciofi, quando c'erano le due varietà proprio di capaccio, c'era il bianco di Auletta. Quindi sempre una riduzione della varietà. Noi mangiamo poca varietà del cibo che compriamo al supermercato, che viene prodotto da questo agribusiness. Se andiamo a fare delle analisi sul contenuto di questi alimenti, troviamo la metà dei micronutrienti rispetto agli anni 80, rispetto agli anni 70. Questi sono dei dati, quindi noi mangiamo un cibo anche molto povero da un punto di vista nutrizionale. E non è che noi non siamo consapevoli che la genetica, d'accordo? È stato scoperto negli ultimi 40 anni, sia a livello umano che vegetale, che sono proprio questi micronutrienti che vanno a modificare l'espressione genica, no? La nutrigenomica, quindi avere meno micronutrienti comporta anche un'espressione genica diversa dal passato. E chi di noi, oltre ad essere un contadino, è anche un medico o un operatore di salute, vi può raccontare che vediamo gli under 30 con i capelli bianchi, facciamo fatica a trovare degli under 30 sani. Non era così negli anni 80, noi ci stiamo ammalando di più. In realtà non è solo un discorso di romanticismo, quindi, o di tutela della biodiversità, che non ha dei risvolti pratici. Noi stiamo invecchiando male. Andiamo a dare un'occhiata ai dati dell'Istat sullo stato della popolazione. Per tornare invece al territorio, dicevamo una uniformità di produzione, anche l'altro grande comparto è la produzione di mozzarella di bufala, che monopolizza il territorio della Piana del Sele, quindi terra che viene dedicata solo per due tipi di produzioni, non c'è più quella varietà, importiamo quindi la maggior parte della frutta fondamentalmente, invece di essere dei grossi produttori. Un ultimo accenno che posso farvi, essendo più di zona, intervistando imprenditori e contadini anziani, perché rispetto alla direttiva nitrati europea, di cui siamo già sforati con deroghe qui in regione Campania, proprio per tutte le pianure con agroindustria, quindi anche nell'agronocerino sarnese, non dimentichiamo anche l'altro territorio pianeggiante qui in Campania, succede che in realtà le analisi sembra che non c'è quella desertificazione dovuta a questi sali di nitrati che si depositano, dovuta ai fertilizzanti e dovuta anche a tutto il letame di bufala che viene riversato in quei terreni. E pensiamo noi che sia un grande miracolo della natura, che rispetto alle previsioni doveva essere già successa questa profonda nitrificazione, e dalle analisi dell'ARPA Campania, dell'agenzia quindi per l'ARPA e l'agenzia regionale per l'ambiente, grazie, ma se andiamo a parlare con degli imprenditori di zona, persone che coltivano 200 ettari di terra, loro stanno notando invece delle differenze rispetto agli ultimi anni e anziani contadini mi riferivano che loro sono almeno 10 anni che non riescono a coltivarsi i pomodori, eppure gente che l'agricoltura la conosce bene, ha lavorato quelle terre fin da bambini con i genitori, quindi ci sono dei fenomeni concreti, perché all'occhio quando girate queste parti, adesso che semineranno il mais, sembra che gli viaggia veloce, però poi andiamoci a parlare, hanno dei problemi che stanno iniziando a riscontrare e alcuni imprenditori, grossi imprenditori della zona di Capaccio intervistati, stanno per esempio dirottandosi su prodotti microbiologici diciamo che sono entrati in commercio, persino la Bonduelle sappiamo che sta utilizzando dei prodotti a base di microbi che invece sono dei prodotti veramente interessanti per noi, che stesso noi utilizziamo, invece dei fertilizzanti di origine minerale che non sono altro poi tra l'altro che rocce sciolte con acidi, quindi noi stiamo comprando, quando compriamo un fertilizzante minerale, delle rocce che vengono squagliate con degli acidi per metterli nel terreno e che però vengono poi poco incorporati dalle piante, poco velocemente, e finiscono nelle falde creando anche poi l'eutrofizzazione, si dice, cioè i canali della bonifica, i torrenti da noi nella piana sono pieni quindi di alghe, c'è molto nutrimento di questi fertilizzanti e quindi la superficie viene ricoperta da queste lenticchie d'acqua, da questa vegetazione a pelo d'acqua che toglie luce e anche ossigeno alle piante che sono più sotto, diciamo, del pelo dell'acqua, quindi guardiamo quanti effetti poi di un'agricoltura così, un'agroindustria così impattante appunto su un territorio. Vorrei magari lasciare, se vuole aggiungere qualcuno, qualche parola invece sull'aspetto dello sfruttamento lavorativo che questa agroindustria e le aziende fanno nel territorio, quindi tutta la manovalanza, c'è moltissimo lavoro, visto il basso costo della manodopera lavorativa. Oggi passavamo davanti a un campo di pomodori appena piantati, ogni 20 centimetri sono stati piantati a mano, da noi vedete un'agroindustria che però talmente basso il costo della manodopera e sono per la stragrande maggior parte stranieri, di solito sono dei contratti fasullamente stagionali, invece lavorano tutto l'anno, quindi è talmente basso il costo che quest'agroindustria che compete a livello internazionale non usa delle seminatrici, ma ci sono questi abilissimi operai agricoli sfruttati che piantano ettari, tutti gli ettari a mano. Non so se lo sapevate o vi aveva colpito qualche campo che abbiamo visto venendo qui, non so se appunto delle associazioni che più si occupano del supporto ai lavoratori migranti vogliono aggiungere qualcosa, che conoscono molto meglio, possono fotografarci questa situazione in Piana del Sele. Voglio, mi raccomando, tutto in coppa a Radio Wombat, allora un caffè. Buongiorno, abbiamo in collegamento Daniela Conti, biologa, attivista sui semi, sulla custodia di semi e la biodiversità. L'abbiamo invitata a darci il suo punto di vista personale, anche come attivista e anche tecnico scientifico, sull'argomento dei nuovi OGM che chiamano TEA. Grazie Daniela. Ehi, mi sentite? Sì, vai. Mi sentite? Ok, posso parlare quindi? Sì. Vado. Ok, ciao a tutti, molto contenta di riuscire in qualche modo a esserci insieme a voi in questa manifestazione, in questa occasione. Stavo pensando al fatto che c'è molto fermento adesso dappertutto su questa questione dei nuovi OGM, quindi sappiamo che il 18 maggio ci sarà l'ultima votazione a livello di Parlamento europeo e che le speranze non sono grandissime di spostare delle grandi cose, però qualche speranza di modificare questa deregolamentazione dei nuovi OGM ancora l'abbiamo. Cioè, più facciamo sentire la nostra voce a tutti i livelli e in tutte le occasioni, e più abbiamo speranza che per esempio sulla questione del brevetto, ma anche sulla questione della tracciabilità, cioè le questioni di fondo purtroppo è difficile che riusciremo a cambiarle, però noi non dobbiamo mai smettere invece di presentare, di dare la corretta informazione alle persone. Per esempio che l'assunto su cui si basa questa deregolamentazione, che questi nuovi OGM da un lato non sono OGM e dall'altro sono totalmente equivalenti alle piante naturali e alle piante dell'agricoltura convenzionale, sono delle grandissime balle che non hanno nessuna base scientifica, e questo è detto da decine e decine e decine di scienziati, di documenti e di articoli scientifici. Quindi loro stanno facendo un'azione che è soltanto politica, ma che può proprio per questo avere, per l'importanza e la profondità dell'operazione che stanno facendo, può avere dei riflessi che nel tempo, nel giro di neanche tanti anni, può completamente stravolgere l'agricoltura italiana ed europea, a partire dal settore del biologico, ma non solo, perché questi prodotti sono l'ultima tappa dell'agricoltura industriale. Sono organismi creati in laboratorio a partire da cellule, quindi la pianta viene ricostruita con delle tecniche molto particolari, come sono anche molto particolari quelle per modificare i geni. Quindi abbiamo delle piante create in laboratorio, isolate totalmente dall'ambiente, molto deboli proprio perché non hanno più le capacità naturali delle piante naturali coltivate in modo naturale di resistere a tutti gli stress ambientali, ai patogeni, eccetera. Quindi saranno piante debolissime che avranno bisogno di tutta la chimica, anche se oggi ci viene detto il contrario, che vengono fatte proprio per evitare la chimica. Non crediamogli, assolutamente. È stato detto già per i vecchi OGM che avrebbero fatto diminuire l'uso dei pesticidi. Bene, pensate solo al glifosato, che a livello mondiale è aumentato di più di 100 volte la quantità di glifosato che viene usato in tutto il mondo, e lo sappiamo oggi da studi anche indipendenti che il glifosato è una sostanza oncogena, non solo per animali, come è stato detto da tanti anni, ma anche per l'uomo. E quindi non crediamo a tutto quello che ci viene raccontato, per favore, perché esiste invece in letteratura un'amplissima casistica di articoli, di notizie, di informazioni. Quindi cercate sempre le informazioni indipendenti, non credete a quello che viene detto a livello di Coldiretti, organizzazioni sindacali dell'agricoltura, perché sono tutti, vedono tutti questa modifica genetica come la soluzione a tutti i mali dell'agricoltura, quando in realtà sarà un peggioramento notevole di tutti i mali, anche perché c'è il problema del brevetto, che è grandissimo. Provate a pensare, queste sono sementi che verranno brevettate, andranno a finire come gestione commerciale nelle mani delle poche multinazionali cementiere che reggono già quasi tutto il mercato delle sementi a livello mondiale. Quindi il mercato lo faranno loro, chi vuole usare i loro segni li pagherà, e anche cari. Pensiamo ai vecchi vecchi OGM, il prezzo dei vecchi, delle sementi dei vecchi OGM in questi 20 anni è aumentato del 400%, quindi che non vengano a raccontare storie anche su questa cosa. Quindi ci sarà un aumento dei costi per chi vuole produrre questa roba, ma questa roba diventerà la base del cibo industriale, quindi per la grande distribuzione. Questi saranno semi che ogni anno andranno ricomprati, perché naturalmente fanno tutto questo per i loro profitti, e quindi non si può pensare di utilizzare il seme e riutilizzarlo negli anni successivi, perché non sarà possibile, perché in America è già successo, i controlli sono severi, se non paghi a loro le royalties puoi andare anche a finire in tribunale come agricoltore. Ma con questo fatto ulteriore non ci sarà mai l'adattamento di queste piante all'ambiente in cui voi le qualcuno decide di coltivarle, perché ogni anno la pianta dovrà essere ripiantata, parte da zero, quindi non può imparare, non può usare l'esperienza che ha fatto nel primo anno in cui viene coltivata, come invece fanno tutte le piante che vengono da semi riproducibili, da semi locali, da semi storici, tradizionali, conservati dai contadini nei decenni e nei secoli. Cioè, quello che sono è la grandissima ricchezza di biodiversità delle piante tradizionali e locali, è proprio questa capacità che hanno le piante di imparare e di trasmettere alle loro figlie ciò che hanno imparato. Tutto questo è epigenetica, ed è quello che la genetica sta scoprendo negli ultimi 20 anni, da più di 20 anni a questa parte, che è totalmente diverso dal discorso su cui si basa l'ingegneria genetica, che guarda solo a come è fatto il DNA e quindi vuole solo cambiare il DNA, e non gli interessa assolutamente la relazione che c'è fra il DNA e l'ambiente. L'ambiente non esiste per l'ingegneria genetica, esiste solo come problema, perché ci sono i parassiti, perché c'è questo, perché c'è la siccità, eccetera eccetera. L'ambiente è tutto. Se non teniamo conto di come il DNA, di come il patrimonio genetico di una pianta, di qualunque essere vivente, interagisce con tutto ciò che gli sta attorno, noi non otterremo mai niente di veramente importante e significativo. Quindi questi prodotti sono comunque destinati al fallimento, perché non sanno evolvere, anche se le chiamano tecniche di evoluzione assistita, è una grandissima oscenità da un punto di vista scientifico, balla totale. Questi sono fuori da qualunque sviluppo evolutivo, non derivano dall'evoluzione, anzi la trasgrediscono, perché tutte le operazioni sono fatte in laboratorio, al di fuori dei processi naturali della fecondazione e della ricombinazione degli acidi nucleici, cioè DNA e RNA, tutte fatte in laboratorio. No. e siamo tornate a Terrasana dopo questa meravigliosa incursione nel campus universitario di Fisciano e vi salutiamo, volevamo salutarvi, ci sarà nel pomeriggio, non si è ancora bene capito qual è il programma, se tavoli tematici barra tecnici o altro, ma di tutto questo avrete notizie da dopo domenica, perché in conclusione la domenica ci sarà con noi Radio Plaza che farà un riassunto delle giornate che seguiranno questa intergalattica di Genuino Clandestino. Io ringrazio la Grebana perché è stato veramente molto emozionante oggi al campus. Esatto, vi ringraziamo con il motto della mattinata che è più campi e meno campus. E soprattutto vi lasciamo dicendovi che le canzoni, lascio lei la parola, le canzoni, tutte le canzoni di questa puntata, cosa che non abbiamo mai fatto, sono dedicate e Zezzi che suonerà qua proprio a Terrasana domani sera, quindi se vi interessa potete venire a sentirvi un bel gruppo live. E visto che non l'abbiamo mai detto, scriveteci a radiocontado@insiberia.net se vi è piaciuta la puntata o se avete dei suggerimenti o volete sapere qualcosa, e ascoltateci su Radio Wombat. Ma soprattutto ovviamente perdonateci, visto che questa è una diretta fatta e caricata al volo, quindi abbiate pietà di noi. Ci risentiamo prossimamente. A presto.